Milano. Effetto giorno di Simone Spezia. Terremoto in Messico, molti danni, almeno 15 vittime, la scossa in mare di magnitudo 8, allerta tsunami. L'uragano Irma scende a categoria 4, ma mette ancora paura, 12 morti sulle isole, mentre punta sulla Florida. Vaccini, lunedì ricominciano le scuole in molte regioni, tra poco in effetto giorno le risposte a domande e dubbi. Firenze, due studentesse americane accusano stuprate dai carabinieri, la procura trova elementi di fondatezza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche come sempre la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, dalla nostra pagina Facebook, quella di Effetto Giorno, così come da quella di Radio 24. Iniziamo dunque questa giornata occupandoci del terremoto che c'è stato in Messico, meglio a largo del Messico, e che sul quale si stanno ancora contando i danni. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sale il bilancio provvisorio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il sud del Messico questa notte. Salgono ad almeno 15 le vittime, tra cui due bambini, secondo il bilancio provvisorio della Protezione Civile. 10 delle vittime hanno perso la vita nello stato di Oaxaca, una tra le zone più colpite dalla scossa di questa notte. Qui sono infatti crollati molti edifici, tra i quali il palazzo municipale e un hotel. La magnitudo del sisma è stata calcolata 8.2 della scala Richter ed è rientrata l'allerta tsunami, anche se ci sono onde molto alte. I governatori degli stati del sud-est del Messico hanno chiesto alle popolazioni dei villaggi appunto lungo le coste di allontanarsi e evacuare le loro città. Scuole chiuse anche a Città del Messico. Per il presidente Peña Nieto si tratta della scossa più forte di maggior magnitudo degli ultimi 100 anni ed è stata seguita da altre 65 scosse minori. Danni e almeno una vittima anche in Guatemala, e per il momento è tutto. Grazie ad Adriana Fracchia per questo aggiornamento. Passiamo a parlare di un altro disastro naturale, ossia l'uragano Irma che si sta avvicinando alle coste della Florida. Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno, sì Simone, è stato declassato a categoria 4 dalla 5 che era, ma non è certo innocuo l'uragano Irma, che appunto, come dicevi, si sta dirigendo sulla Florida dopo aver flagellato i Caraibi, dove ha lasciato una striscia di morte e desolazione. Sono almeno 13 le vittime, ma ci sono anche molti dispersi e i danni ammontano a milioni di dollari. Francia e Olanda, che condividono il governo dell'isola caraibica di San Martin, si dicono preoccupate della distruzione, ma anche purtroppo dal rischio saccheggi, e rafforzano i controlli. Nella notte italiana Irma ha lambito Cuba e spazzato le isole britanniche Turks and Caicos. La Croce Rossa stima che siano già 1.200.000 le persone che vivono gli effetti disastrosi di Irma. L'uragano, come dicevamo, con venti fino a 220 km orari, incombe sulle Bahamas, è in rotta, come dicevamo, per la Florida, dove dovrebbe toccare terra domani. Uffici, scuole e università sono state chiuse, mezzo milione di persone sta lentamente cercando di lasciare l'area meridionale dello Stato. E ultima nota, all'Italia, come tutte le altre compagnie, ha cancellato i voli per Miami domani e domenica. La nostra Laura Bettini, tra l'altro, ci ha aiutato a raggiungere una persona con la quale parleremo più tardi. Si tratta di Antonio Nanni, è un ingegnere che tra l'altro ha studiato esattamente gli effetti degli uragani sulle costruzioni e vive e insegna a Miami, dove si trova in questo momento. Ci faremo anche raccontare un po' la città, in che situazione ne parliamo dunque più tardi. Veniamo alla cronaca italiana con i due carabinieri accusati da due studentesse: ci hanno violentato, dicono. La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per verificare la denuncia presentata dalle due studentesse americane, entrambe ventunenni, che accusano due carabinieri di averle violentate. Sentite dagli inquirenti fino alla tarda serata di ieri, le due hanno confermato quanto raccontato alla polizia. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri sarebbero intervenuti assieme ad altre pattuglie per una rissa scoppiata in una discoteca nella zona di Piazzale Michelangelo. All'esterno del locale avrebbero conosciuto le due ragazze e le avrebbero poi riaccompagnate a casa con l'auto di servizio. A questo punto, stando alle studentesse, sarebbe avvenuta la violenza. Gli aspetti da chiarire del loro racconto sono ancora molti, ma gli inquirenti avrebbero trovato dei primi riscontri. Dall'analisi di alcune telecamere di sicurezza, in particolare, sarebbe stata individuata l'auto dei carabinieri con due donne a bordo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La questione dei vaccini è il giorno dopo la marcia indietro del Veneto. Un dibattito lunare, così il governatore del Veneto Luca Zaia all'indomani della sospensione della moratoria, una decisione che consente alla sua regione di allinearsi alla legge nazionale sui vaccini obbligatori, almeno fino alla pronuncia del Consiglio di Stato, che a suo dire dovrà chiarire come si deve applicare una legge scritta male. Il braccio di ferro con il governo dunque si allenta e le stesse ministre Fedeli e Lorenzin si sono dette soddisfatte, ma Zaia tiene il punto. Lo slittamento dei tempi infatti chiarisce non è revocato ma temporaneamente sospeso, anche per evitare, dice, di spendere e defatiganti, contenziosi, e resta il problema dell'interpretazione della legge. Il Consiglio di Stato non dovrebbe impiegare più di 2 mesi, mentre è stato presentato anche un ricorso alla Corte Costituzionale. Zaia comunque ribadisce: sono a favore dei vaccini, ma per il dialogo. Gli obblighi sono spesso un boomerang. Giustissimo il dialogo con i cittadini, commenta il ministro della Salute Lorenzin, ma purtroppo non basta e il Veneto rimane sotto la soglia del 95% di vaccinati. Lorenzin annuncia poi la partenza di una massiccia campagna vaccinale e anche un lavoro di rimozione delle fake news dalla rete. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E come già vi dicevamo nei titoli di vaccini, torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione. Abbiamo deciso di dedicare, come vi avevamo già annunciato nei giorni scorsi, un intero spazio di Effetto Giorno esattamente alle risposte alle domande più comuni dei genitori che lunedì porteranno i figli a scuola, ed è esattamente quello che faremo. Alcune ne abbiamo noi, altre se volete inviare, i numeri li sapete, ve li ho detti prima: 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Siamo alla vicenda dell'Università Statale di Milano, che ha rinunciato al ricorso contro la sentenza del TAR sul numero chiuso per le facoltà umanistiche, dunque al via regolarmente le immatricolazioni per quest'anno. Il rettore Gianluca Vago al microfono di Maria Piera Ceci. Non mi piace tenere in ostaggio 4.000 studenti per un mese e mezzo senza che sappiano che cosa può capitare loro. Non è questo l'obiettivo. Noi rimaniamo in realtà convinti che sia necessario chiarimento legislativo su questo tema, al di là poi delle questioni più generali che riguardano il numero programmato. Il mio problema adesso è che probabilmente noi inizieremo le aule e io avrò gli studenti sui gradini delle aule perché non ci stanno. Io ho pensato l'introduzione del numero programmato addirittura come uno strumento a tutela degli miei studenti, a tutela della qualità dei corsi che gli studenti si trovano ad affrontare. Rimango di questa idea. Quello che è importante è che il sistema abbia una coerenza complessiva. Non si può dire che il rapporto tra docenti e studenti è cruciale al punto da essere un elemento fondamentale per poter fare un corso o no, e poi dire che quello stesso elemento così importante è assolutamente neutro ed indifferente rispetto alla possibilità di introdurre o meno un numero programmato. Questa è una incongruenza logica. Milena Gabanelli, lo avete letto sicuramente sui giornali, ha rinunciato alla condirezione di Rai News 24 tra le polemiche. Dario Ceccarelli l'ha raggiunta. Ci ho dormito su. Io sono stata assunta per creare i presupposti per far funzionare una macchina che in questo momento non funziona, no? Che è quella del web, dell'informazione online, che la Rai non ha, pur avendo 1600 giornalisti. Alla fine di questo lavoro la proposta è: stai dentro la macchina che non funziona, quella che bisognava, in attesa che si compino eventi. Allora, poiché le probabilità di far marciare quella macchina sono pari a zero, e quindi perché io devo andare a schiantarmi? Sarebbe stato anche divertente fare il condirettore insieme a Di Bella, perché è una persona che stimo, un amico, è stato anche il mio direttore a Rai 3. Dovevano darti una Ferrari, ti hanno dato una 500, si può dire così. Senza ruote, guidata da un altro. Con le condizioni, già è un'impresa, eh? Però la sfida la raccolgo, come dire, volentieri, perché è entusiasmante, perché io ho sempre solo lavorato per la RAI e l'idea di creare, di dare un contributo a creare una cosa che non c'è, mi entusiasma. Se non ci sono le condizioni, mi tiro da parte e aspetto che si verifichino le condizioni. Quello di oggi è un anniversario politico particolare, perché è l'anniversario di quell'evento che di fatto dette il via al Movimento 5 Stelle. Sono 10 anni dal V-Day. In principio fu l'armistizio, poi il V-Day. Perché l'8 di settembre è stato il giorno della disfatta degli italiani, 8 settembre 1943, quando i Savoia hanno lasciato il popolo italiano allo sbando. E da quella data lì non è cambiato niente! 220 piazze italiane, piene di gente stufa di pagare per non avere servizi, stufa di aspettare per avere leggi eque, stufa di vedere in Parlamento gente che avrebbe dovuto stare altrove, per esempio in galera. Il movimento fu, e fu dirompente, un masso nell'acqua melmosa della politica. A 10 anni di distanza il movimento è il primo partito, parola impropria per i 5 Stelle. È cresciuto nelle urne e nelle amministrazioni locali, dove l'inizio fu Parma. E quel Pizzarotti, forse troppo indipendente, che alla fine, uscito pulito da un'indagine, uscì anche dal movimento. Arrivò comunque la vittoria in tanti altri centri e il movimento conquistò Torino e Roma, schiacciando anche una certa spocchia della vecchia politica. La città sabauda mostrò entusiasmo e fiducia, poi ci furono i fatti di Piazza Castello e un mancato cambiamento che i torinesi ricordano spesso alla sindaca. La capitale ha una storia a sé, perché amministrare Roma è simile a una delle fatiche di Ercole, e però in Campidoglio non si sono fatti mancare niente. Una giunta che è diventata tale solo a distanza di mesi dalle elezioni, una girandola di assessori che si fa fatica a stargli dietro, polizze vita comparse all'improvviso e una gestione improvvisata delle emergenze. Anche in Parlamento il concreto stenta a farsi largo nel movimento. Dalla battaglia sui costi della politica, inciampata sulle diarie, alla legge elettorale, un proporzionale che di certo non accelera i cambiamenti. L'onestà resta la parola magica. Al netto di firme false e abuso d'ufficio, però, essere onesti è condizione necessaria, ma non sufficiente. I cittadini, anche i 5 Stelle, quando arrivano a sedersi in aula, devono aver studiato e avere un programma con un capo e una coda. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altra questione che sta animando la politica, la vicenda della cosiddetta marcia su Roma di Forza Nuova. Questa è dedicata all'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. Forza Nuova ha indetto una nuova marcia su Roma contro i migranti. La data fissata è il 28 ottobre. La storia ci ricorda che è la lugubre data scelta da Benito Mussolini 95 anni fa per prendersi il paese, annullare ogni forma di opposizione, ogni libertà individuale e politica. Gli organizzatori dicono che con il fascismo non c'entra nulla, che non è la riproposizione di un film tristemente già visto e ripetuto. Così alla manifestazione le hanno cambiato il nome, non più marcia su Roma, ma marcia dei patrioti. Il concetto non cambia. Nel nostro paese è vietata qualsiasi forma di apologia di fascismo e di ricostruzione del Partito Nazionale Fascista. È scritto nella Costituzione, nel codice di procedura penale ed è fissato da anni nelle regole della nostra democrazia. Eppure solerti magistrati hanno recentemente ritenuto di non procedere contro gli organizzatori della parata fascista al campo 10 del cimitero maggiore di Milano. Eppure in Italia si è aperto un dibattito se vietare oppure autorizzare la marcia dei patrioti. La questura sarebbe intenzionata a vietarla, ma in un paese normale forse non si sarebbe nemmeno aperta la questione. Così dunque il nostro Daniele Biacchessi nella sua analisi del venerdì. L'analisi di Daniele Biacchessi, lo ricordiamo, è il martedì e il venerdì. Ora andiamo a Venezia per la mostra del cinema. Marta Cagnola, ciao, buongiorno, che cosa hai da raccontarci oggi? Ciao Simone, cambiamo totalmente argomento, abbiamo gli ultimi fuochi da sparare perché domani sera si saprà chi ha vinto. Allora, oggi è un giorno importante perché è il giorno dell'ultimo italiano in sala, Anna, di Andrea Pallaoro con Charlotte Rampling. Alla fine della proiezione stampa c'è stato qualche applauso, quindi una discreta accoglienza per questo film che racconta la storia di una donna rimasta sola perché il marito è stato arrestato, accusato di un crimine terribile. Anna comincia un po' a sgretolarsi, a affrontare il tormento interiore di chi non vuole accettare la realtà. l'ultimo film in concorso insieme a Anna è Jusqu'à la Garde di Xavier Legrand, un film veramente impressionante perché la storia di una donna che battaglia col marito per la custodia del figlio, ma c'è una violenza sopita a lungo che poi si scatenerà. Ultima segnalazione è il film fuori concorso di Diego Olivares che chiude la settimana della critica, uscirà il 14 settembre, questo Veleno, che è una storia ambientata nella Terra dei Fuochi con Massimiliano Gallo e Luisa Ranieri. Allora si chiude ancora con Napoli questa mostra del cinema di Venezia. Per ora da Lido è tutto. E grazie anche alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, anche se la prima tappa non sarà in Italia, sarà da un italiano, come vi raccontavo poco fa, che vive a Miami e che tra l'altro si è occupato anche di uragani. Parleremo con lui e ci faremo dare un quadro della situazione in attesa dell'uragano Irma. Ci occuperemo di vaccini, cercando di rispondere il più possibile alle vostre domande, quelle più pratiche, per così dire, non se è legale o meno, come può finire il ricorso alla Corte Costituzionale e via dicendo, ma soprattutto per aiutare i genitori che lunedì porteranno i figli a scuola. Torneremo a Mortara, dove l'incendio che era stato spento la notte scorsa in realtà si è rivitalizzato, per così dire, nell'azienda che smaltisce rifiuti e rifiuti speciali. E poi un tema che secondo me quest'anno, sul quale torneremo parecchio quest'anno, che è il racket dell'accattonaggio. Abbiamo parlato ieri delle decisioni del sindaco di Borgo Sesia, andremo a Genova, a tra poco. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presento... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del terremoto in Messico, dell'uragano Irma, ci siamo occupati di vaccini e ci torneremo tra un attimo. Abbiamo parlato della mostra del cinema di Venezia e anche di questa brutta storia che arriva da Firenze. Due studentesse americane accusano due carabinieri e dicono di essere state stuprate. La notizia di pochi istanti fa è che i due militari sono indagati dalla procura di Firenze, il che naturalmente non vuol dire necessariamente che siano colpevoli, semplicemente si indaga su di loro sulla base delle accuse delle due ragazze. Come si diceva, adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, ma lo iniziamo in realtà non dall'Italia ma da Miami, dove si trova Antonio Nanni. Buongiorno. Buongiorno a lei. Oppure che ora è da voi? Sono le 7:18. Le 7:18 del mattino. Antonio Nanni è un ingegnere e insegna ingegneria a Miami, ma poco fa stava potando le piante, Nanni, o lo sta ancora facendo? Sono appena rientrato, sta facendo luce adesso e naturalmente bisogna fare quello che si può in giardino, ovviamente per il vento che ci aspettiamo arriverà domenica. Bisogna ovviamente potare le piante per evitare appunto che dei rami volino via nel momento nel quale arrivasse l'uragano Irma con la sua potenza, no? È evidente, sì sì. Esatto, questa è la ragione, chiaramente queste sono piccole cose che si fanno, si portano dentro le piante eccetera, però è chiaro che con venti che soffieranno attorno ai 160 miglia all'ora probabilmente questi sono soltanto dettagli. Sì, naturalmente. Ascolti, come vanno le cose la Miami? Che, lo scenario qual è? Ma la cosa, io credo che, cioè, a parte il problema strutturale, eccetera, però io vorrei dire due parole rispetto alla logistica, all'organizzazione. Credo che le autorità dello Stato e soprattutto le autorità locali abbiano fatto un lavoro davvero eccezionale nel senso della preparazione della popolazione. È da martedì che naturalmente tutti stanno ascoltando le notizie e si stanno preparando. Credo, se i numeri forse non sono esattissimi, però da stamane penso che circa 1.200.000 persone abbiano evacuato già l'area, per cui insomma, è un numero abbastanza notevole. Nelle zone sono soggette al surge, quindi l'alzamento dell'acqua marina, nelle zone A, B e C c'è l'evacuazione obbligatoria. Per cui io credo, cioè, almeno da un punto di vista del pericolo sulla vita delle persone, se si è fatto tutto quello che è possibile. Il problema endemico strutturale degli edifici è un'altra cosa. È perché questo che volevamo chiedere, perché lei si occupa anche di queste cose, lei studia anche queste cose, cioè gli effetti di questi eventi naturali come gli uragani proprio sulla struttura degli edifici, no? Sì, io sono uno strutturista, mi occupo più che altro di ripristino, però ovviamente il ripristino viene dopo un evento catastrofico, che potrebbe essere un evento sismico o un uragano, e il nostro lavoro è appunto di mettere in sicurezza le strutture, ma anche progettarle in maniera più adeguata. Ma come mai vengono giù così tante case negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti? Allora, il problema è estremamente complesso, io credo. Sì. Riusciamo a semplificarlo in brevissimo, esatto. Nanni? Allora, da un punto di vista della normativa, io credo che dal 1997 siano stati fatti dei progressi straordinari, per cui la normativa, quello che noi chiamiamo il Building Code, soprattutto in Florida, riconosce il problema dell'uragano e ha delle previsioni giuste. Il problema, io credo, di fondo rimane negli edifici esistenti e soprattutto negli edifici che vengono costruiti, la manodopera nel mondo delle costruzioni. Questo, l'industria delle costruzioni sicuramente non è un'industria sexy. Chi lavora in questa industria, soprattutto a livello di manovalanza, lo fa perché non ha altri sbocchi. Sì. Quindi le competenze, la qualità sono qualità costruttive basse. Quindi, la ringrazio. Faccio un esempio, sì. Un esempio velocissimo. Devo chiudere. Cioè, se lei parla di impact windows, naturalmente le finestre potrebbero funzionare, però se non sono montate bene, Volano via. Naturalmente. Esatto. Grazie Antonio Nanni da Miami per essere stato con noi. Veniamo dunque ai vaccini. Voglio salutare Mauro Ruggeri, medico di medicina generale, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Buongiorno, benvenuto Ruggeri. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Tengo a precisare che sono il presidente della Società Italiana di Medicina Generale per la Toscana, sì. Non per tutta l'Italia. Per essere preciso. Per la Toscana mi occupo in particolare dei vaccini e quindi vi ringrazio di avermi interpellato su questo campo che mi sta particolarmente a cuore. Allora Ruggeri, qualche domanda molto pratica. Certo. Lunedì che cosa succede? Che cosa devono portare i genitori? Allora, dunque qui si le... No, perché, mi scusi, è preciso, qua certo. Le chat di genitori stanno impazzendo. Immagino. È un impegno complessivo di un po' di tutti, perché naturalmente la legge è abbastanza a ridosso e così anche le circolari attuative. Ricordo che la legge di cui si sta parlando, dell'obbligo vaccinale, sì. È del 31 di luglio, sì. Quindi approvata il 31 di luglio, sì. E che le circolari che sottendono a questa legge, che ci danno delle indicazioni. La prego, non mi dia le date di approvazione delle circolari. No. Andiamo sul concreto. Cosa devo portare lunedì? Cosa devo portare lunedì? Allora, cosa occorre per i minori dai 0 a 16 anni? I documenti sono uguali, poi cambia naturalmente per l'obbligo, per la scuola dell'infanzia e invece per la scuola dell'obbligo. Sono le conseguenze della mancata presentazione che possono essere diverse. Allora, sicuramente ci vuole la documentazione che comprovi l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Qual è questa, che cosa serve in particolare? In particolare il libretto delle vaccinazioni vidimato dall'ASL, cioè quando il bambino ha fatto le vaccinazioni, firmato e timbrato dall'ASL, oppure in sostituzione di questo un certificato di vaccinazione sempre rilasciato dall'ASL, oppure un attestato sempre dell'ASL che dica che il bambino o il minore comunque è in regola con le vaccinazioni. Va bene anche l'autocertificazione? Allora, in mancanza di questo si può fare un'autocertificazione, cioè il genitore, il tutore, comunque che è responsabile del minore, può presentare un'autocertificazione e il bambino è ugualmente naturalmente accettato a scuola. Però mi scusi, Ruggeri, però sì. Entro una certa data, entro marzo, allora, mi sembra, allora, deve allora, portare la documentazione. Attenzione, no? Attenzione, allora, se entriamo entro l'11 settembre dobbiamo portare l'originale, d'accordo? È quello che abbiamo, o l'autocertificazione. Se porti l'autocertificazione e poi devi portare invece il documento che tu hai autocertificato, naturalmente devi portare entro il 10 di marzo del 2018. Questo è quanto. Quindi autocertificazione, se la porti entro il 10 di marzo devi portare la documentazione, vera quella fatta dall'ASL, quella che comprovi, le scadenze sono le stesse per la scuola dell'infanzia e per la scuola dell'obbligo? No, non sono le stesse, perché per quanto riguarda la scuola dell'obbligo si va al 31 ottobre per la presentazione dei documenti, perché naturalmente si aprono più tardi le scuole, 31 ottobre per i documenti, mentre sempre per l'autocertificazione si va al 10 di marzo. Quindi l'autocertificazione è uguale, sempre al 10 di marzo, sì. Mentre la presentazione dei documenti originali senza fare l'autocertificazione, quelli che sono... Quindi riassumo per gli ascoltatori. Allora, se siete genitori di bambini o ragazzini che vanno alle elementari o alle medie, avete tempo fino al 31 ottobre per portare i certificati medici, oppure autocertificate e poi portate i certificati il 10 di marzo. Per quanto riguarda invece i genitori, i bambini della materna, delle scuole, dell'infanzia, fino a 6 anni, entro l'11 di settembre. Oppure, mi faccia precisare, perché l'11 settembre, perché il 10 è festa, perché è domenica, perché la circolare prevedeva il 10, ma questo non ha interesse per gli ascoltatori. Quello che ha interesse è che in alcuni casi si possono aprire più tardi gli asili, va bene? Quindi invece che, per dire, in alcune zone invece che l'11 si apre il 15. Sì. No? Allora là c'è stato un accordo con il Ministero anche dell'istruzione, per cui la documentazione viene presentata al momento dell'apertura della scuola. Quindi questa regola dell'11 settembre vale per quelli che si apre l'11 settembre. Se la scuola si apre il 15 settembre, le portano il 15 settembre. Ci chiede un ascoltatore se mancano dei richiami. Allora, se mancano dei richiami bisogna mettersi in regola, Allora possiamo fare in diverse maniere, sempre con l'autocertificazione, c'è un documento, c'è il foglio dell'autocertificazione in cui si dice che abbiamo richiesto all'unità sanitaria locale di fare le vaccinazioni non effettuate, oppure presentando l'appuntamento formale, cioè la copia dell'appuntamento che c'è stato rilasciato dalla ASL per fare quella vaccinazione o quelle vaccinazioni che mancano. Scrive un ascoltatore ossessivamente, un'ascoltatrice ci sta scrivendo ossessivamente e qua mi faccia iniziare a rispondere a me: noi siamo genitori responsabili e non vacciniamo. No, siete degli irresponsabili se non vaccinate, e fatevelo dire in tutta sincerità, perché a prescindere da quello che rischiano i vostri figli, chi rischia di più sono i bambini non vaccinati o che non possono essere vaccinati o che sono troppo piccoli per essere vaccinati, che sono nelle vostre scuole, o quelli che non si possono vaccinare perché hanno delle altre patologie. Mi scusi per lo sfogo, perché prego. È un po' ne riceviamo parecchi messaggi di questo genere. A proposito, cosa si rischia a dichiarare il falso? Il dichiarare il falso si rischia una sanzione penale, perché naturalmente il DPR 450 del marzo del 2000, che prevede la possibilità di autocertificare, naturalmente se chiaro e falso si va incontro, secondo l'articolo 76 del detto DR, a delle pene, si va in penale praticamente, si va a ricercare l'articolo 483 del codice penale. Si va in penale, ecco, se si dice il falso in un atto autocertificato è un reato penale, ecco, non è un reato amministrativo, ci fanno una multa. Le ultime due domande, Ruggeri, riguardano le sanzioni, perché sono diverse, lo ricordiamo, in base al decreto, per la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo, perché per la scuola dell'infanzia si resta proprio fuori, cioè il bambino non può entrare nella scuola dell'infanzia, mentre invece ci sono le multe per i genitori nel caso di elementari e medie, no? esatto, esatto. Allora, dunque, sta il discorso è così, è, sta in questi termini. Diciamo, per la scuola d'infanzia, cioè fino a 6 anni, se non si è in regola non si può accedere. Naturalmente il bambino rimane iscritto, questo è importante perché non vuole essere questo un atto punitivo, ma un atto che cerca in qualche maniera di recuperare le persone che non sono in regola, i ragazzi che non sono in regola, cioè l'obiettivo è vaccinare, non punire la gente che non si vaccina. Quindi, e questo lo vorrei sottolineare, quindi se poi il bambino viene, si mette in regola, può riaccedere nuovamente alla scuola, questo è importante, però è chiaro che se il bambino non è in regola non può partecipare. All'esezione. Per quanto riguarda invece i più grandi, cioè dai 6 anni in su, questo, il fatto di non essere in regola con le vaccinazioni non preclude la frequenza, però comporta naturalmente un richiamo da parte della ASL competente ai genitori. Vengono richiamati una prima volta con una lettera, poi se non rispondono vengono successivamente richiamati, poi se proprio non rispondono o comunque non decidono di non vaccinare il bambino, può essere combinata, deve essere combinata una sanzione. E sperando che poi alla fine, come ci scrive qualche ascoltatore, non finisca a tarallucci e vino. No. La ringrazio, grazie a Mauro Ruggeri, a lei, presidente della Società Italiana di Medicina Generale della Toscana. Licia chiede, entro il 31 ottobre di che anno e di quale anno? Di quest'anno, entro il 31 ottobre deve portare il certificato di vaccinazione dei suoi figli. Ci fermiamo, ci andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo, riprendiamo il nostro giro per l'Italia, andremo a Genova per parlare di accattonaggio di mendicanti e poi a Mortara, dove sta ancora bruciando l'incendio nell'azienda di rifiuti. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: terremoto in Messico, molti danni, almeno 15 vittime, ci sarebbero delle persone intrappolate sotto le macerie di un hotel, la scossa è stata in mare di magnitudo 8. L'uragano Irma intanto scende a categoria 4 ma mette ancora paura, 12 morti sulle isole mentre punta sulla Florida. A Firenze indagati 2 carabinieri, 2 studentesse americane l'hanno accusati di stupro. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Qualche ascoltatore dice: dovete dare voce anche alla parte di scienziati che si dicono contrari ai vaccini. E il problema è che non esistono. Non ne di scienziati, cioè se di scienziati parliamo, di scienziati che siano contro i vaccini non ne esistono. E quindi è inutile che ne discutiamo di questo tema. Va bene, come sapete questo argomento mi scalda sempre un po', perché qua si parla di scienza, di una delle più grandi conquiste della storia dell'umanità e viene messa in dubbio da 4 cialtroni che non siete voi che gli credete, ma sono loro che diffondono queste teorie. Assessore Stefano Garassino, assessore alla sicurezza del Comune di Genova, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Eccoci qua. Allora, per parlare con lei di un tema che abbiamo già affrontato ieri e che temiamo che diventerà piuttosto forte quest'anno, ed è questo. Ieri abbiamo avuto il sindaco di Borgosesia, che è un sindaco della Lega, che ha varato un'ordinanza per la quale prevede che le multe che vengono fatte alle persone che vengono trovate a fare accattonaggio in giro per la città e che provengono da luoghi nei quali vengono accolti in quanto profughi, migranti, richiedenti asilo e via dicendo, vengono mandate direttamente alle coop e saranno le coop a pagare. Ci ha detto il sindaco di Borgosesia, mi sono messo d'accordo col prefetto su questa cosa. L'impressione, Garassino, è la questione si è sentita molto forte da voi prima dell'estate e su questo avete avuto anche un incontro con il prefetto, e che appunto il racket si sia inserito in mezzo a queste persone, il racket dell'accattonaggio, il racket dell'elemosina, perché nulla c'è di male a dare un euro a una persona che è in difficoltà, diverso è se questa persona è gestita da altri che poi ci prendono la percentuale sopra, no? Certo, assolutamente, infatti già io prima di fare assessore da buon militante, dirigente Lega, ero sempre sul territorio, quindi noi avevamo delle zone di Genova particolarmente attenzionate dal fenomeno dell'accattonaggio, che era organizzato, c'era proprio una persona che poi a fine giornata veniva a recuperare gli incassi di solito erano tutti senegalesi o comunque africani, molti sicuramente ospiti di queste strutture, perché dovete sapere che poi nelle strutture, su questo poi parlerò anche col prefetto, perché siamo molto sensibili al discorso di che cosa fanno queste persone. Noi abbiamo delle strutture che lavorano bene, che fanno andare a scuola questi ragazzi ospitati e fanno fare dei lavoretti all'interno delle strutture o comunque insomma lavori che possono dargli un qualche strumento in più. Sì. Invece ci sono altre associazioni che aprono le porte alle 8 del mattino e li fanno rientrare alle 8 di sera. Sì. Quindi abbiamo tutte queste persone che vanno in giro. E in quelle 12 ore, ore non si sa che cosa facciano, ma soprattutto come dire, sono persone. Allora è chiaro che nel momento nel quale sono in questo territorio, non sono, lo abbiamo raccontato ieri, non è che sono in un centro di detenzione, quindi è chiaro che sono ovviamente liberi, però è chiaro che tu puoi anche coinvolgere queste persone e inserirle anche in un progetto di integrazione, perché no? Mentre invece ci sono, appunto, come diceva, cooperative o comunque persone che fanno accoglienza, che questo non lo fanno. Esattamente, dovrebbero andare a scuola, invece ho scoperto che basta solo iscriverli a scuola per essere regolari dal punto di vista di chi li ospita, invece bisognerebbe fare dei controlli su se veramente frequentano le lezioni di italiano, che sono anche fondamentali, no? Perché uno che sul territorio italiano non sa parlare una parola di italiano, è evidente che l'integrazione sarà impossibile. Su questo direi che non è una questione né ideologica né politica. Ricordo però, tornando al discorso dell'accattonaggio, che esisteva fino al 1999 l'articolo 670 del codice penale, che era proprio sul reato di accattonaggio, che è stato abrogato proprio nel 99. Quindi è chiaro che non si può fare una legge di vietare l'accattonaggio, è quello che spiego anche ai miei cittadini che mi dicono molti di questo fenomeno fastidioso. Esiste però sul nostro regolamento comunale, ma credo un po' in tutte le città, il reato di accattonaggio molesto, che significa che di fatto se tu, come dire, sì, sei particolarmente pressante. Garassino, mi scusi una cosa, dato che abbiamo veramente, prego, 20 secondi. Io direi questo, su questo tema noi ci torneremo quest'anno e magari ci darà anche un'idea di come state cercando di risolvere il problema a Genova. Quindi adesso intanto andiamo a chiudere. Io la ringrazio, Stefano Garassino, assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Siamo andati un po' lunghi a parlare di vaccini prima per dare qualche indicazione ai genitori e quindi ci scusi. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.